Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Nel mese di novembre torna Movember, la campagna per la lotta al cancro alla prostata e ai testicoli che vuole cambiare la faccia della salute degli uomini. A Obiettivo Salute il professor Andrea Saloni, urologo, andrologo presso il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano. Movember è un'opportunità straordinaria di promozione della salute al maschile, poiché da tanti anni ormai permette la raccolta di fondi completamente finalizzati alla ricerca nell'ambito di quelle che sono patologie prevalentemente oncologiche della sfera urogenitale tipicamente maschile, quindi della prostata, tumore della prostata, e del testicolo, tumore del testicolo. I due tumori hanno caratteristiche sostanzialmente diverse per prevalenza. Il tumore della prostata è indubbiamente il primo tumore nella fascia di età che va dai 50 anni in su e comunque il primo tumore maschile. Il tumore del testicolo invece è un tumore che riguarda circa l'1% di tutte le neoplasie, interessando il 5% delle patologie della sfera urologica. Segni e sintomi da conoscere per non trascurare, ascoltate l'approfondimento del professor Salonia sulle pagine di Obiettivo Salute. Un gene dalla doppia faccia, una sua variante contribuisce a una vita lunga in salute, un'altra a quella appena individuata. Dai ricercatori del Laboratorio di Fisiopatologia Vascolare dell'IRCCS Neuromed di Pozzilli, in collaborazione con il gruppo di ricerca dell'IRCCS di Multimedica, ha invece un effetto dannoso sul sistema cardiovascolare in quanto predispone all'ipertensione. A Obiettivo Salute il professor Carmine Vecchione, ordinario all'Università di Salerno presso l'IRCCS Neuromed di Pozzilli e coordinatore dello studio. È un nuovo marcatore genetico di ipertensione arteriosa che è presente nella popolazione nel 4%, e individuare questo marcatore ci permette di caratterizzare precocemente quei pazienti predisposti allo sviluppo dell'ipertensione e quindi del danno vascolare. Stiamo lavorando per cercare di rendere disponibile al più presto, di traslare in ambito clinico questa nuova scoperta in maniera tale da poterla rendere disponibile, proprio l'individuare la caratterizzazione di questo marcatore, e così tutta la popolazione potrà usufruirne proprio per cercare di identificare precocemente questi pazienti. Per oggi io vi saluto e vi aspetto domani con un nuovo appuntamento di Obiettivo Salute, sempre a mezzogiorno. La programmazione di Radio 24 continua adesso con Melog. Io vi aspetto in diretta video insieme al professor Iannoccari. Venite con me se volete allenare la vostra attenzione, la vostra concentrazione e la vostra memoria. Buona giornata da Nicoletta.